per i fondi in Vaticano. anestesia. E nel caso lo dovessi o sentire tramite baracco o in qualsiasi altra maniera, perché io non so manco come sia questo ragazzo qui, dici che si dia un attimo una calmata, perché l'altra sera, ti giuro, stavano andando a prenderlo, e non è simpatica la cosa, perché quando è bevuto è veramente strano quel ragazzo lì. Ti posso chiedere, sei liberissimo di non rispondermi, perché io l'altro giorno gli ho detto, addirittura mi sono permesso di dirgli che oltretutto gli fa anche male, cioè certo non posso essere né suo padre né sua madre a dargli questi consigli qui, però arrivati a un certo punto ti viene anche spontaneo dire una cosa del genere, perché dalla voce mi sembra ragazzo, o sbaglio? Proprio ragazzino, dai, ancora ragazzino, però gli fa male, Cappadone, gli fa male tutta quella cosa in corpo e con quelle dosi, mi hai capito? Io dico questo anche, vuoi bere? Ok, hai problemi, non si risolvono così, però non puoi accendere il baracchino ed entrare in frequenza in quelle condizioni lì, dai, perché non è corretto manco nei confronti della gente che entra per passarsi due minuti, oppure della gente che è proprio, posso usare anche un termine, appassionata, e aspetta la sera per poter sintonizzarsi, per sentire gli amici, per scambiare quattro chiacchiere, oppure anche per scambiarsi anche delle opinioni, giuste o sbagliate che siano, però lui non può entrare in quella maniera lì e fare casino, perché sovramodula uno sull'altro, mi capisci? Speriamo che metta un pochino di testa, guarda, glielo auguro di tutto cuore, perché ridursi così a 30 anni, guarda, io ti posso dire una cosa, mi sono sposato a 25 anni anche se non avevo fatto nessun danno, per una scelta liberissima mia, quelle sono scelte di vita, però io dico questo, a 30 anni lo sai quante cose belle si possono fare? Mi capisci, K2? Non c'è solo la bottiglia o il bicchiere, ci sono tante altre cose che una persona a 30 anni può fare tranquillamente, però allo stesso tempo ti posso dire che non può rompere le scatole alla gente, perché qui quando si entra a modulare c'è gente veramente seria, c'è gente che ha bisogno anche di parlare, di esporre anche le sue opinioni a uno e all'altro, perché noi quando ci troviamo qui non siamo due persone, ma siamo diverse persone, e io dico questo, io la penso in una maniera, entri tu e la pensa nell'altra, ci si confronta, ci si può anche bisticciare in alcuni momenti, ma dico bisticcio nel senso buono, no? Mi comprendi? Però arrivati a un certo punto non puoi entrare tu e creare tutto il casino che crei, perché quando una persona beve il baracchino, credimi, lo deve lasciare spento, dai. E cappa, dai, allora se lo conosci strappagli i fili dalla presa, dopodiché niente, e cosa si può fare, dai, perché poi la cosa diventa anche antipatica, perché con gli strumenti che ci sono adesso ti arrivano sotto casa e sanno anche il piano là dove stai modulando lì, K2. K, dai, adesso abbiamo tirato un pochino il discorso, dai, stiamo annoiando anche gli altri, riprendi tu Luca, scusami se mi sono dilungato più di tanto. Ecco, avanti! Positivo, Caparroglio, allora, buonasera, benissimo ascoltato, Giuseppe e a tutta la ruota. Bulldogger da Brescia, qui sono tutti. Buonasera a te, Bulldogger, qui sul 21 abbiamo Luca, K2 e l'amico Falchetto. Avanti Falchetto per i saluti, riprendi tu, Mike. Cappa, ti ringrazio. Niente, salutoni. Bulldozer, ben sentito e ben entrato. Ok, Luca per i saluti, dai. Ciao, ciao, Massimiliano, che a te. Ce l'ha anche per Paolo, mi sembra, o Antonio. Chi è che chiama Forchetto? Avanti. Ecco un attimo. Guarda, controllino qua, la ricco lì, cos'è il portatore, se... Deve essere molto, molto basso, segnale 0 e radio 1 qua, Prova un passaggio, vediamo un po' se è migliorato, vai. Negativo, non so, poi comunque ciao Massimiliano, facciamo entrare il break a Gianni. Avanti Gianni, buonasera, temi. Ok, buonasera a tutti. Luca, Giuseppe, Massimiliano, Franchetta, risposta ancora più uno. In generale saluto tutti quelli che sono sulla ruota. Rimetto il cambio a Giuseppe, ricordi Giuseppe, capri due ti rilancia a te. Sì, grazie per il Mike Capri 2, ben sentito e cordialità come sempre. E non per essere ripetitivo, ma è un piacere averti qui sul 21, dai, ben sentito Capri 2. E avanti Parchetto per i saluti. Capri 2, lasciate Toni anche a Gianni, dai, Capri 2. Ben sentito di nuovo e salutone. Rilancio il mic a Luca, vai. Break. Ho utilizzato il break. Avanti il break, buonasera. Ciao Luca, ciao Giuseppe, ciao Gianni, ciao Falchetto. Mi sembra che non ci sia altro nessuno. Salutoni a tutti, Giulio da questa parte. Avanti Gianni da Muro, su K. Ciao Giulio, ben sentito, io un po' più di Guarelli, però già ti sento lo stesso, sto rientrando la sera sera, hai capito, come se non ce l'ho portato da sera a portare il ragazzo per riferire l'autista. Ok, mi ascolto comunque, è sempre un piacere, come ho detto Giuseppe. Quando ci rivediamo però appena accendo ho sentito anche a Giuseppe che c'erano delle lamentele, dico, col signore che ho detto con tanta cordialità. Ciao Massimiliano, attendi pure se devi scendere la BM, non lo so, e io passo il micro a Giuseppe. Avanti Giuseppe con la buonasera K. Sì, grazie Giulio per il mic, anche per te cordialità, salutoni e naturalmente una stretta di mano. Ben sintonizzato anche tu sul 21, il canale degli amici che ruotano tranquillamente su questo fantastico canale, Giulio. Riprendi tu Giulio, avanti. Ok Giuseppe, ok. Anch'io ti cordializzo al 100% con un affetto alle mano, ci mancherebbe altro che non lo facessi. Certo, sì, anch'io sono contento quando incontro degli amici o capo come quelli che ci sono qua in questo momento, però purtroppo io parlo molto, mi devo lasciare, in quanto sto aspettando, diciamo così, che arrivi la pizza qui e dunque la chiamata dal basso per, appunto, per la cena, ma mi fa piacere stare ancora qualche minuto qui con voi. Ecco, ho sentito campanello, scusate, mi devo scendere giù al piano di sotto per aprire la porta. Riprendi pure Luca. Luca. Avanti Falchetto, riprendi tu il mic Falchetto, Luca si deve essere attentato un secondo dalla stazione. Cappa de Roccia. C'era un moderato che stava chiamando, era Di Mulio, così. Scusatemi un attimino, mi hanno chiamato per la cena, dunque sono costretto a lasciarvi. Salutoni a tutti, grazie per il piccolissimo QSO, mi ha fatto piacere ascoltarvi, alle prossime, io vado a cenare. Riprendi pure ancora Falchetto, scusami l'interruzione. Ciao a tutti, Giuseppe, Luca, Massimiliano, chi più altro che mi metta, non posso dire altro. Ciao Falchetto, riprendi, scusa. Ok. ok, ciao Giulio, buona carica, buon tutto, ce la riascoltiamo tutta le prossime. Anda Beneveda, riprendi il mic a Giuseppe, dai, avanti Giuseppe. Sì, grazie Pacchetto, ciao Giulio, buona carica, buon tutto, ci risentiamo presto, dai, alle prossime quando coincide. Avanti l'amico Capri 2, dobbiamo lasciare un attimino il posteggio, per i saluti all'amico Giulio. Ciao Gianni, salutoni, non so se posso poi, vediamo poi, dipende dall'andamento familiare eccetera eccetera, ci sentiamo, grazie comunque ancora per i saluti, ci sentiamo, QRT per me, Luca mi sembra che non ci sia, vai Giuseppe. Grazie Giulio, sì, diciamo che come ha detto giustamente l'amico Capri 2, qui sul 21 nonostante tutto riusciamo a tenere alto un certo indice di gradimento, anche se nonostante tutto, anche posso dire con profondo dispiacere, se posso usare questo termine, cerchiamo di avere attacchi da tutte le parti per poter rovinare, diciamo, questa modulazione che in tutte le maniere stiamo cercando di tenere alta, perché, oddio, scusatemi il termine, ma io penso che stiamo arrivando a livelli familiari qui dentro, ed è bello perché ci si confronta, ci si parla, ci si raduna, e se posso usare questo termine un pochino rude, diciamo, però io dico questo, non possono essere due persone che possono rovinare questo canale qui, anche perché se posso usare il termine l'unione fa la forza, e io penso che noi uniti possiamo essere più forti di questi due, scusatemi gli imbecilli che entrano per rovinarci il canale, niente, però penso che nonostante tutto facciamo dei piccoli sforzi tutti quanti giorno dopo giorno per tenercelo bello stretto, e con questo niente, passo il mic all'amico Paghetto. È positivo, parole sacrosante, parole giuste Giuseppe, parole giuste, perché non si può rovinare una frequenza per due valori che entrano lì a mettere importante, e io sono pienamente d'accordo con te, l'unione fa sempre la forza, Zappa, io ti rilancio il mic e poi fai girare, dai. Sono io Zappa, Sì Luca, avanti dai, riprendi tu. Oh, sono Massimiliano, dai, salutoni, mi sembra che Giulio sta andando via, lo volevo salutare, ho sentito, scusate se sto riprendendo io, mi sembra di aver sentito Gianni da Porto Torres che chiamava, avanti se sei tu, doppio nome. Buonasera a tutti, io non sono un portatore, se non ho chiamato io, comunque hai detto, dai, vi stavo ascoltando, sono tutti cordialmente ben sentiti, dai. E allora c'era qualcuno altro che chiamava, avanti che chiamava sul 21. Come senti, ti ascolti, io non lo faccio, cioè, ho ritardato una ventina di minuti perché in questo momento e ti ascolto molto bene. Comunque le lanci di tutto a Giuseppe e poi fa girare, eh. Sì, grazie Gianni, senti, visto che sei qui in zona, non sbagliare indirizzo, ecco, quelle pizzette calde calde, anche il pescenato, beh, posso anche fare uno sforzo, ci mancherebbe altro, anche perché non vorrei mai offendere un amico, attenzione Gianni. Volentieri, un accendio contante, l'ho preso per loro, un altro momento volentieri te lo invito, non c'è problema. Cappa Gianni, dai, ci mancherebbe altro, si scherza giusto per tenere alto il morale qui, non è quello il problema. Comunque se vuoi passare passa lo stesso e le lasci e non c'è problema. Avanti Capri 2. Thank you. famiglia e la carica e poi la modulazione. E niente, io rilancio immediatamente il mic a pacchetto per riprendere il collega Di Domenico. Avanti l'amico pacchetto. Di positivo, grazie per il mic. Volevo rilanciare l'amico che mi ha chiamato poc'anzi. Attento se si ascolta, vieni avanti. Ma sì, Livonio sono. Da Livonio, forte e chiaro. Dove sei Livonio? Positivo, vai. Allora ti farà compagnia Domenico se ti ascolta. Avanti Domenico per Livonio. Grazie, perché i colleghi stanno entrando in zona protetta e io la faccio quasi ogni giorno con la zona lì e guarda, è veramente brutta. Positivo, va bene, è importante ascoltarci dopo i buffi, dai. Pacchetto, vediamo un pochino se riusciamo a tirare fuori qualcuno, forse Domenico è uscito dalla buca. Va benissimo Domenico, vai alla grande, vai, ti rilancio subito il mic per l'amico Pacchetto che ti copia al 100% meglio di me, vai Pacchetto. Domenico, vai, tutta la grande qua, vai, non c'è problema. Positivo Domenico, sei in zona negativa, da parte mia, zona negativa, Pagappa, io lo sento piccolo piccolo, dai, rilancio il mic a te Giuseppe, vieni avanti. Io purtroppo ho perso Domenico, non riesco più a copiarlo, mannaggia. Vediamo un pochino se stiamo un attimino più fortunati, se riesce a scollinare da qualche parte, ma sicuramente non so se lui adesso mi copia, dovrei riprenderlo quando è quasi al bivio per Olbia, oppure fronte Isa, cambio. Ha detto Domenico, lo copia a Giuseppe, cambia. Fammi fare la ponte e lo senti per un secondo. Ha detto di aumentare i cavallini, capito? A fare un passaggio più lungo, vedere se ti tira fuori. Cappa Domenico, io avrei voluto aumentare quei cavallini dando all'apparato un pochino di vitamine, ma è questione di pochi giorni comunque. Dopodiché vediamo di schioppare forte da questo apparecchio. Cambio. Certo. No, Pacchetto, tu l'hai copiato bene? Cappa, ha detto che ti stavo iniziando a tirarti fuori, Non so se tu l'hai sentito. Avanti Domenico. Yeah, positivo, ti sentiamo, vai. Positivo, positivo, vai. Un minuto di bianco per Tornado, arrivo subito. Positivo, vai. Ti sto sentendo in mezzo al QRM, dove sei? Cappa, forte e chiaro, adesso ti ascolto, vai. Avanti, avanti. adesso ti sento poco poco, comunque ti auguro un buon viaggio, dai, buon trabacco, buon rientro, avanti Gianni. Ehi, io non lo so se non ti ascolta Domenico, noi... Cava, dai, buon continuo trabacco, allora Domenico, e buon rientro, vai. Che sto cominciando a se la perdere del tutto. Va bene, buona serata allora, ciao. Avanti, chi è rimasto 02? C'è Limonio che fa, Limonio. Ecco. C'è stato il break. Anzi, mi chiamando Domenico, mi sta chiamando. Aspetta, facciamo. Dai, va bene. Domenico, avanti. Vabbè, adesso non lo sento più, non è che sono qua alla chiesa di Sant'Angelo. Riprendi Gianni, buonasera a tutti comunque, scusate, l'intromissione è stata per fatto ascolto. Ho sentito Gianni, un attimino, fa che tocca che mi ha lanciato, e poi chi c'era? C'era quello di Muglio di Croaghi, e poi c'era anche Giuseppe che ha fatto un attimo di bianco. Buonasera comunque, roba buona. Buonasera a tutti, vediamo se c'è l'amico di Plaga, se mi ascolta. Avanti Plaga. A Cattari sono, no, ti ascolto anch'io, Santiago 8, sì, più o meno. Ho sentito, mi sembra di nuovo Domenico. Domenico, ci sei ancora? Cappa, ho fatto un po', però ho telefonato, buonasera, mi hai sentito. Ciao Doppio Rosso, un abbraccio forte adesso, dai, buon proseguo. E adesso sei forte e chiaro, dove sei? Paga, Bobby. C'è Roberto che ti accompagna sino a cosa? Arbitro di Berchini. Ma va. Sì, ciao Domenico, ben sentito, dai, arrivando la bomboletta qua. C'era l'amico di Plaghe, che non ho capito il nome relativo, avanti l'amico di Plaghe. Sì, sì, va benissimo anche la parte tua, c'era la grande. Comunque Roberto ti saluta. Buonasera. Ma stai rientrando a casa o al lavoro devi andare? Parcheggiare, hai sentito, che stavo a parcheggiare la banda pesante, Roberto. Avanti, Falchetto, vediamo un po' qui se è detto di Giuseppe. Ciao, salutoni Roberto, dai, e salutoni anche Demonio, dai, buono carica, buon tutto da parte mia, ciao Demonio. Mi senti bene adesso, Falchetto? Positivo Demonio, al 100%, dai. Hai visto con la bollina di fare a casa, la caldetta 500 metri, se non al mare come prima che non sentivo un cazzo. Non c'è problema, tutto ok, dai, le lascio il mic a te per farci dare, dai. Ok, dai, io da parte mia sono qua fino alla salita di Sacargia e tra poco parcheggio, tra poco vi saluto anch'io, continuate a girare, siete grandi. Ah, fatti ringrazio, dai, Demonio. Ok, riprendi Robby. Sì, sì, adesso c'è una grande, oltre 9 c'era il segnale qua. Va benissimo, dai, niente da dire. Vediamo se Domenico mi ascolta ancora. Avanti Domenico, sì. Avanti Gianni. Ehi, perché io l'ascolto Domenico ancora un pochino. E io roba è 9, ci arrivo. Ehi, quanto ti sta arrivando? Tu sei 9.25 a luglio. Kappa. Sento lo stesso segnale. No, sei un po' più basso, dai, del solito. Vabbè, ma tu c'hai il segnale altalenante, comunque già staranno forte, già, niente da dire. Come mai c'è questa differenza? Più basso, ho detto. Ma ti ho sentito in certe situazioni anche 9.30 a te io, ma non so cosa c'hai. Adesso sì, rispetto alle altre situazioni è un po' più basso, però è sempre un segnale fortissimo. Cosa vuoi dire? Come ho fatto? Allora, la grande, adesso c'è Domenico sta parlando. Dipende dal demonio. Va bene, dai, ok, mi hai sentito, magari ci sentiamo in altre situazioni con più tempo a disposizione. Avanti Gianni. Dimmi adesso come stai uscendo. Guarda, vado. No, più o meno come prima, non ho visto grossi cambiamenti. Che già un fatto, cosa è successo? Ma ho passato io il coso, la potenza della rara. Ora, l'altro giorno eravamo con Salvatore, stavamo uscendo con 0,2 watt, 200 milliwatt. 9,20 arrivava lui e 9,20 arrivavo io. Proprio in FM eravamo un po' spostati per non andare a fatica a nessuno. Con 0,2 watt stavamo uscendo. Non mi piace la radio già, il segnale è sempre forte, però la radio non mi piace. Cazzo, cosa hai fatto? Ho aumentato il vabbè, così posto. No, il segnale va bene in tutti e due i casi, però poco fa ha fatto un passaggio, sembra di essersi saturando. Vabbè, un'occasione già, un Cortex Excalibur, bello, tipo il Saturneco, però ha una frequenza di metro, 100 euro, bello. Lo so, l'unica cosa già, devo telefonare per vedere se c'è l'FM, perché esistono due versioni, una con l'FM e l'altra senza FM. Cosa devi fare, no? Perché non usiamo mai FM. E vabbè, ma se è completo è meglio, perché quello che ho visto io, ne ho visto due versioni, ti ho detto, esiste anche la versione con Roger Vip e con l'Ecco. Devo chiedere se c'è tutte quelle cose lì. Esiste anche la versione col commutatore, tu non c'hai il commutatore d'antenna davanti nel frontale? No, negativo. Commutatore d'antenna no, c'è il CVR, quelle stazionarie, c'è il rosmetro VAT, Sì, sì, no, conosco benissimo. Siccome sono derivato l'Excalibur, la versione ridotta, diciamo, senza frequenzimetro del Saturneco, però io ce n'è uno in fotografia, me l'ho preso adesso, bello, al primo piano, però questo c'è il commutatore dell'antenna, c'è antenna A e B, che è abbastanza utile, diciamo. A me mi sarebbe utile, diciamo, lo utilizzerei. Però non ha l'FM, c'ha solo le bande laterali. Vabbè, certo, è buono, lo vedo 180, 160, 180 su internet. Comunque è totalmente diverso dal Galaxy, non è come il Galaxy. Il colore è diverso, ti manca il frequentimetro, è diverso come interno, è tutto diverso. Ma è abbastanza simile esteticamente, vabbè c'è un altro apparato, però è abbastanza simile come linea, dai, c'è un altro apparato a destra, gli strumenti, tu c'hai più frequenze di metro, però come i tastini, disposizione dei tastini è abbastanza simile, però è presente Saturneco, io l'ho visto anche in versioni, oltre che nero, l'ho visto anche in versioni argentate, meglio, l'ho visto addirittura il Petrus, non so se lo conosci, dorato. Petrus è della Lafayette, non è Galaxy. E della Lafayette, sì, tutte cuffie che hanno fatto l'originale Galaxy, poi tutte le altre sono cuffie che non hanno fatto. E hanno limitato un po' il caso, capito? Petrus e Lafayette. Sì, sì, sì, è l'imitazione del Saturneco, fatto in imitazione, però è molto simile, l'ho visto uno, se lo vedi già, è una cosa allucinante, l'uomo usciva dal negozio, lucido, uno spettacolo, e quello però ne vuole 200 euro. Che fare ingannare dalle foto, Roberto? Perché molti mettono le foto che scaricano da internet, per cui tu vai a vederlo e quando ti arriva magari ti arriva un carraggio. Non ti fare ingannare perché ce ne sono molti che sono loro. No, a parte non stiamo parlando di Bigia, stiamo parlando di altre cose, non so, bisogna stare attenti a queste cose. Però questo in fotografia è nuovo fiammante. Quest'altro che sto dicendo io, questo, come si chiama? Col Excalibur, la foto non è bellissima, si vede acceso, però è un po' sfocata, dai, non è, è al 100%, per cui anche se sono grandi si perde di definizione, però c'è il numero di telefono e tutto quanto, si può parlare benissimo. Perché avevo trovato un collezionista che aveva apparati nuovi comprati dal negozio invece di vetrina, mai usati. E avevo preso due apparati di vecchia era, poi mi sono arrivati Romero. Cioè, sembrava uscire dal negozio. E io dico, ma poi me l'ho curiosità, cosa stai utilizzando adesso? Io il Galaxy. Non mi piace come radio, c'è qualche problema, hai cambiato microfono, sei un bel strano. Che cosa c'ha di strano? Oh già, ti sento diverso dal solito, c'avevi più squillante dalla radio, adesso la sento un po' più cupa io. Lo controllo proprio a me. Ma di che cosa è, segnale o di radio? Radio segnale. No, radio bella, chiara, pulita, niente da dire, il segnale è solito tuo, fortissimo, più di 9.30. Sì, non è l'Ecco che sta andando male già, non lo so, perché sembra che sta saturando, cioè come quando c'è qualcosa attaccato e ti sta togliendo la modulazione. Prova a togliere l'Ecco per curiosità. Guarda bene così. C'è un passaggio più lungo. Prova, 1, 2, 3. E ma sei sempre con l'Ecco già, Cavallino, ti sei passato il segnale comunque. Guarda a vedere. E adesso mi sembri tu, però prova un passaggio lungo. 1, 2, 3. Ma sei un po' più bravo, ma che microfono hai usato? Aspetta, fammi vedere il livello. Che microfono stai utilizzando? Proxer, quello solito, Roberto. Ma non uscivi mai con questo microfono? Hai cambiato rispetto alla perdita della settimana scorsa? Ho un altro microfono qua. No, sempre lo stesso. Poi tu stavi cercando un coso, un microfono già, un, come si chiama, Saretta Ecomaster Plus, 70 euro lo stanno vendendo. Dove? Dove ho detto? Entra su subito.it e cerca, metti nel motore di ricerca, scrivi CB e poi, oh, ci sono 20 e passa pagine, scrivi CB e poi scrivi tutta Italia, ti guardi, ti sugli tutte le pagine e c'è. Appagato. Buonasera a tutti. Che tu sei per qua? Perché non si sente? Boh, sei un bel strano. Sono un bel strano. Salta, avanti con il burmolino. Ma no, non sei tu, nel senso che sei più meno bruttoso come voce. Più pomposo? Meno bruttoso, ti ascoltavo sempre con chi da fare di attaccare. Mi stavo stupendo, infatti ha detto, ma no, volevo assimiliare, no, che fa formare. No, no, va bene questa, sì. Sì, sì, non dico che sia eccezionale, ma più che bene. Un pochettino un po' più alto dovresti essere per avere qualcosina di più, ma da parte mia va bene anche così. Sì, più alto, già va bene, là, se poi alzo ti scatteneggia la legge. No, va bene, che microfono è questo? La radio, ma come va? Ciao Pierpaolo. Ciao, no, qualche mese stavo chiedendo una cosa di Gianni. Ma Roberto, controllami adesso la radio come va, Roberto. Già, è sempre 5, ma non ti do l'eccellenza. Sufficiente, niente, non sei tu. Secondo me stai peggiorando. Cioè, rispetto a come ti ascolto normalmente, sei peggio. Break. Franco. Vai già. Io non ho l'incomincio per me. Adesso sembra un po' meglio già, forse si è andato un po' meglio, comunque mi sembra Salvatore la voce, avanti Salvatore. Giuseppe, buonasera Giuseppe. Giuseppe, scusa, guarda, avanti Giuseppe. Venne sentiti e venne sintonizzati sul canale 21. Grazie Roberto per il mic, Giuseppe è qui con voi, dai riprendi tu Pierpaolo. Buonasera Giuseppe, buonasera. Avanti Falchettos. Cappa, ben entrato Giuseppe, dai, riprendi il mic tu, dai, fai girare. Sì, grazie Falchetto. Gianni, ma a me piace quella radio comunque, non è squillante, bella come era prima, oserei dire anche cristallina, quel tocco di cristallino che aveva la tua voce uscendo, adesso è cupa, non piace manco a me, cambio. Guarda questo passaggio. Gianni, no, hai sempre un qualcosino di cupo che non lo so, prima eri più squillante. Eppure è quello normale. Gianni, scusatemi, no, buonasera Cupo Giuseppe, ho confuso, mi sembrava il Salvatore al primo acchito, buonasera. Gianni, prova a fare un passaggio adesso, ti dico un po'. Guarda, dai, guarda se è normale o se la buttare via il microfono. Adesso si è andato un po' meglio, ma c'è delle attenuazioni momentanee, cioè adesso gli acuti sono un po' più presenti, poco fa sono calati completamente, non capisco cosa sta succedendo al microfono o a qualcos'altro apparato. Grazie Roberto, bisogna spiegare tutti esplicitamente. Poco fa stavo facendo alcune prove, adesso le sto facendo altro, non è che. Poco fa era attaccato, poi fu. No, io sto parlando di microfono, se l'ha attaccato loro non me l'ha fatto in nulla, già lo sai. Però ti sto dicendo poco fa, ma ha attaccato che cosa? Se sei andato più basso, come fa a essere attaccato? Vabbè, lasciamo perdere. Lo so già, vabbè, lasciamo perdere. Però adesso stiamo uscendo bene, come modulatore mi piace. Va bene, ok, capito. Va bene, vai Pierpaolo. A me stavo dicendo. Aspetta, vorrei che andiamo avanti. Vediamo avanti, scusate un attimino, facciamo una chiamata generale sul vetro e vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. E vediamo se Domenico c'è ancora in circolazione. E iniziamo con Domenico che era lontano. Se mi ascolti, Domenico, avanti. Non l'ascolto, dai. E chi tocca, riprendi per qua. Ehi, a casa. Guarda, noi siamo alzando, c'è un po'. Va. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3. No, più o meno come prima, ma va bene, mi la radio, è tranquilla per qua. Da parte mia va più che bene. Cava, cava, va bene, dai. Riprendi, Giuseppe. Ehi, cappa, per qua. Non sembri manco tu con questa radio, lo sai. No. Ehi, qua è questo le 12.5, ma qua ci posso attaccare anche il canale più 3. Giuseppe. Avanti. Non svegliare il cane che dorma, piano piano siamo riusciti a fare abbassare la radio, Pier Paolo, non vuole che si torna ad accallarla, se no mi fa sonno. No, no, Dio me ne guardi e me ne liberi, Robert, tranquillo, non c'è problema. La settimana prossima devo sentire la matracca. Avete parlato in due comunque, ripeti Pier Paolo. Ho detto, scegli tu stasera, ho questa, o la 48 o la 87. La parte mia va benissimo questo, se tu rimetti il camera è ancora meglio, però questo va bene anche come livello, stai andando meglio, o ti sei avvicinato un po' di più? Posso parlare molto lontano, quelli sono 30 centimetri. Va bene così, non c'è problema, il livello va benissimo. Ah, fa di rogero, dai con il 48, però è meglio, Non gioco. Franchetto, lui giù c'ha l'MV più 4, no, cosa metto, l'M93. Positivo. Il tuo è una bella bestia, lo stesso, spinge bene, fate. È positivo, anda bene meda. Cos'è con il Mobicom? Cosa? Che apparato è il tuo, il Mobicom? Oh, alla 87. Ah, benissimo, bella chiara, pulita, nessun difetto, niente da eccepire. Giuseppe, riprova un po' tu, vediamo a te. Sì, io sono il più piccolino, io sono con le 48 robe, ma penso che vada bene lo stesso, vai. Tu c'hai un segnalone allucinante, microfono originale c'è questo? Del 48 robe. Il suo di dotazione dico, non è un microfono diverso? Diciamo che è diverso, dai, non è proprio il suo robe. Oh, va benissimo, per essere pignoli appena appena gli acuti in più dovreste avere, però va più che bene, la radio ultima, niente da dire. Capate Rogero, beh, va bene così, dai, anche perché essere troppo forti non è che sia nemmeno consigliabile, perché poi che si va a finire che si sappia. No, guarda, se rimaniamo tutti così come siamo oggi, io non mi sto ascoltando, non posso giudicare, però parlo di Perpalo, di te, di Gianni e Coso, le modulazioni sono entro i limiti tollerabili, diciamo, che non ti sfacciano le orecchie, per cui sono molto tranquille, pulite, non hanno grossi difetti, per cui da parte mia magari fossero sempre così. E cappano, va bene, dai, e riprendi già. Ma tu, scusatemi, no, Giuseppe, ti stai aiutando con qualcosa? Negativo, Robè, negativo, sto uscendo con 3 watt. Cioè, con la potenza dell'apparato? Come, Robè? Con la potenza dell'apparato stai uscendo tu? Solo con la potenza di questo apparatino qui, è una RAN Alan 48 in multi. Sì, sì, no, c'è un segnalone, tu sicuramente arrivi più forte di tutti gli altri, tu, cioè, considerando che non è che sei nato come Gianni. Vediamo un pochino se riusciamo a beccare Gianni. Gianni doppio room, ci sei? Ninna ninna, ninna nanna, pupo bello della mamma, che gira di vero? Chi si rompe Gianni? Gianni rompe. Gianni. Tu sei Gianni? Luca, non so Gianni. Ebbene Luca lì, questo cos'è il tuo solito? Se mi sembri un po' più basso da normale. Ma infatti, ma sono accorto. Non so cosa cacchio da presso. Non lo so, boh. Fate che cambio una cosa, aspetta. Andiamo via, questa è una delle migliori radio della frequenza, secondo me. Luca. Luca. C'è una bella abbinamento tra apparato e microfono, proprio una delle migliori di qua. Secondo me nei CB era probabilmente la migliore. E K di positivo, vai Roberto. Va bene, anch'io con Luca ho parlato diverse volte, chiaro, però in questi ultimi 2 o 3 giorni un po' qualche problemino gli è venuto fuori, non so che cosa abbia, ma sicuramente sarà qualche stupidata. Guarda un po', Roberto, lui sei più basso. Non so, è l'antenna. Non ho fatto niente io qua. A me picchi sono positivi, però c'hai almeno 10 punti in meno di segnale. Quanto sono? 9,20, quasi diciamo 9,20 con i picchi. Non ha circuitato qualcosa dentro adesso. Più ce lo fa anche. Hola. Ma io sento anche a Gianni più basso, cioè vi sto ascoltando tutti più bassi, a parte Pierpaolo e cosa, come si chiama? E Giuseppe, Falchetto, non ci sono problemi che è vicino, però sono tutti più bassi, Gianni e Luca ci avete segnato più basso della normale. Gianni, va a controllo tu, non ti arrivo a te. Prova la c'è lo stesso, va un po', 1, 2, 3, prova, vai. 9,25, dai, come la sua. Ah, vabbè, però è tuo, scusa, dammi un po' che quanto sono, guarda un po'. 9,20. Da Gianni, va da Giuseppe, vai Giuseppe, controlla, mi stai facendo tutti. Vai tranquillo, qui stai arrivando a fondo scala, Luca. Roberto, non è tuo, scusa. No, Roberto, ciao Luca, il problema c'hai tu e Gianni, qua ottava, sono arrivato almeno con 2 punti più bassi, sei Santiago 7, in arrivo di sempre 9,5, Gianni addirittura ha quasi un altro più basso di 9. Più basso di 9? Qua mi sembra più tranquillo, uno di stazionari. Tranquillo. Per riprende tornato per Gianni, cambio. Ciao, papà, come hai sentito comunque? E ciao a tutti. No, sono in ascolto solo, ma ha ragione Roberto. Luca, sei molto più basso. Non del radio, ma il segnale. Io non guardo mai il segnale, non mi interessa niente il segnale. Ma sei più basso. Prima avevavi 9,95, oggi sei Santiago 7. Ciao, Salvatore. Guarda adesso, ma sono più basso ancora. C'è dei picchi positivi altissimi, cioè da 7 vai a fine a 9, ma quando vai importante sei 7 fisso, cosa che prima invece no, era così. No, sulle mi ha preso. Mi si accavo, il cavo è in corto. Non lo so, infatti qua mi accorgo lo switch prima saliva a 9 più, adesso sale a 8. Che ce li hai belli pieni, positivi, però c'è il segnale Salvatore, ti hai preso della ottava. Devo dire, Roberto, non ci posso fare niente. Non so cosa è successo, sono stazionario, aspetta, controllo, ma mi sembra strano, aspetta. Ciao Salvatore, buonasera. Ciao Fatti, buonasera. No, era l'ascolto, mi stavo ascoltando, mi hai già fatto entrare proprio perché c'era da mangiare, non volevo dire, ma era giusto dare adito a quello che stava dicendo Roberto, ma c'è Gianni che è molto più basso rispetto a prima, già, poco fa tu stavi saturando, stavi arrivando con un segnale di prima, ma stavi saturando perché stavi spingendo, se lo spingi però stai arrivando molto più basso. Perché adesso come ti arrivo di Santiago, controlla adesso, già, sempre più basso, e io il tuo segnale te lo ricordi come ti dicevo, che qua è uno dei più forti, sempre più basso, c'è qualche cosa, magari c'è qualche cosa in cui sull'antenna, magari quando mi dica problemi di un'acqua che per tempo che sta facendo, io non lo so, però beh, ma il mio segnale è uguale per esempio. Sì, tu sei 9,20 qua. Io non so come ti arrivo il segnale. È proprio un problema di Luca, sicuramente c'è qualche cosa che non sta andando, perché Falchetto mi arriva la stessa cosa, Giuseppe mi arriva la stessa cosa, quindi controllatela, magari che non ci sia qualche cosa in corso. Ti sta arrivando Falchetto, è molto più forte di te, tu dovresti arrivarmi molto più forte di Falchetto. Se mi arrivassi a Falchetto. Come già? A 2 passi da 7 linea d'aria, Falchetto. Ma se vuoi, ma se non vai giù a Sacro Cuore, tu sei pulito pulito, cioè non hai niente di ostacoli. Falchetto al Sacro Cuore. No, Falchetto, scusa, no, Falchetto, con Giuseppe volevo dire. Sì, ma confermo, Giuseppe si avevano molto più volte contato, si avevano con Nove e con Chichimuri, quella radio ha fatto la radio, io il segnale non li guardo mai, anche c'è il mio che lo guardo, lo smetto, mi interessa la radio, però se proprio mi avessi i figli, Giuseppe si avevano più forte, ha ragione Roberto. Ma me la presto la pecchi. Avanti Tornado, con la buonasera. Stazionale sono un po' alpine, uno è 4, uno è 5, ma qua sono sempre gli stessi, impossibile. Hola, hola, che stazionale c'è uno e uno? Luca, vabbè, qua e qua sono sempre gli stessi. Sono più uguali, quasi 15. A quello che mi colpisce, Luca, tu c'hai bellissimi picchi che ti guadagni 10 punti con i picchi buoni, abbondanti, però l'importante sei molto più basso di prima, hai perso almeno 10 punti. Boh, non so, Roberto. Basta. Sta pensando che si abbia risicchiato il cavolcare. No, ma cavolo non c'ha nulla. Ma sicuramente forse lo freddo, Roberto, non lo so. Faccia una nuova grande. Ma mi sono reso conto adesso dello Smith che sale a 9. Prima saliva di più. Comunque, aspetta un attimino. Che cavolo adesso? Aspetta. Stazionale è qua. 1 e 3. 1, 2 e 3. Non lo so, non riesco a dare una spiegazione, ma non è che l'hai strapazzato, l'hai tenuto troppo acceso l'apparato, magari ci sono scaldati un po' i finali. No, è stand-by era. Non so, non è una spiegazione, sembrerebbe che non stia rendendo continuamente, cioè nel senso, con i picchi arrivi sì a tenere segnali tuo, però l'importante no, sei 10 punti di meno. C'è una qualcosa che c'è nell'aria al monte, eh. Ma c'è roba, già. Ho detto c'era qualcosa che c'era nell'aria al monte. No, sono mai fatto un'altra volta, ho stesso problema. Però causato dal commutatore dell'antenna. Non andava proprio. Infatti avevo messo un cavo diretto. Qua guarda. Le stazionali. Luca, fai una cosa, togliere tutto, metti l'antenna diretta. Guarda, aspetta. Diretta senza raccordatore. Per noi io, Tornado, abbiamo fatto un tempo a darti una risposta, bellissima, la radio va bene, guarda, c'hai i picchi buoni, c'hai. Arrivi, l'importante è sì, 995, ma quando c'hai i picchi vai veramente bene, ragione Roberto, c'è una bellissima radio. Luca, il problema è proprio sulla, non è sulla modulazione, perché ripeto, ti confermo quello che ti facevo Gianni, qua c'hai la portante a 7 e c'hai i picchi che arrivano anche 9, quindi non è un problema di modulazione, sicuramente c'è qualche cosa che non sta andando, perché non sei mai arrivato così, la stessa cosa per Gianni, il bene è che è quello, io lo stavo guardando, magari pensavo che era un problema, poi sono intervenuto perché sembrava che magari Roberto se si diceva una cosa sbagliata, no, lo sto notando anch'io, quindi controllatevi qualche cosa, già, controllate qualche cosa. Ecco, dando un segnale adesso, vediamo un po'. Allora, la radio non ce la discute, sta arrivando bene adesso, non si sa più come stasera che ti ascoltavo, è il segnale che c'è più basso, sì, con un segnale di 9 qua, prima hai perso 20 dB, hai perso almeno. Allora, guarda, Robert, la casa diretta, vai, faccio un po' di tensione, quella è un po' lo scala. L'ottava è migliorato, non sei 9 pieno, ma stai quasi arrivando. 5 punti rispetto al normale c'è cioè, di meno, però è migliorato qualcosa lui. Ma ti dico, deve essere il freddo, troppo freddo c'è fuori, Roberto. Magari, non lo so, boh, non c'è qualcosa che non vuole. No, so. Io ripeto, non ho toccato niente, stavo modulando prima. Guarda, adesso attacco il apparecchio, aspetta, allora, quei secondi, così mi dai un segnale buono. Vogliamo vedere se ripeto la paracchia o l'antenna, ma secondo me è l'antenna, la paracchia non c'è nulla. Aspetta, stacco, attacco questo qua un attimo. Che fa? Non controllo tu a casa tua, come ti arrivo? Sempre come sempre. Ricordati, com'è il segnale? 9 e sul più, 9 e sul più, il tuo segnale. Non lo so, vabbè. Dai, provo a attaccare questo qua, vediamo un po', dai. Riprendi, Salvato. Sei 25, radio 5. Tanto, no, ma l'altro non c'è il problema, secondo me, ma in vicinanza non se ne accorgono, a lunga distanza si sente un po' la differenza. A me sento che tu sei a Milano parecchio. Io, per fa, almeno 10 punti li ha presi a me, Luca, adesso un po' di meno perché ha attaccato direttamente, però non è il suo segnale, Luca era in assoluto uno dei più forti qua, senza considerare a Franco, però dietro la zona del monte era il più forte di tutti. Guarda che... Roberto, guarda un po', aspetta, scusa per qua. Qua sono a massimo di va, vai, guarda adesso. Qua c'è 9.25, c'è più o meno il segnale che c'è sempre, però la radio non serve lui. Vabbè, questo è il 2001 da... Aspetta. Questo è il 2001 da aumentare di cose, diciamo di microfonia. Lo so. Comunque il segnale è sempre lo stesso o no? Un pelotino, 5 punti di più hai guadagnato. Allora c'è da fare l'antenna. Per fare, date com'è, guarda. Vabbè, guarda, aspetta, faccio due passaggi. Uno è questo. E uno è questo, vai. Allora, con il primo passaggio è poco meno del più, con il secondo sul più. Allora la radio loop è giù di tantissimo quando sollevi. Peggioro tantissimo, guarda così, va quasi a zero, guarda adesso. Come alzi, ti abbassi, ti mangi tutta la radio lui. Vabbè, aspetta, guarda adesso. No, non è cambiato niente, come sei più basso esci bene, non è forte, però è bella comprensibile, come sollevi sembra frottata. Ah, cappala, bene, vabbè, comunque provava l'antenna sicuramente, non leva nessuno da testa. Ma secondo me Mari saranno bagnati un po' il TL e cose del genere, Mari le catenelle non rientrano, cioè non neanche te le segna, però qualcosina di rendimento non sta tirando bene come dovrebbe tirare, no? Aspetta, Pierpaolo. Capa. Io ho commesso di segnare la testa sempre lo stesso o peggiorato? E non mi hai sentito, ti ho detto uguale. Cazzo, Cotrioli, no, che tu che ne effendi, vabbè. Perlomeno qua non mi segna nulla, non mi segna nulla. Non capisco cosa possa essere. Vabbè, l'unico problema è che mi segna, guarda, col commutatore lo smette, prima mi saliva a 9.20, una specie portante. Adesso mi sale a 8 e fischiando sale a 9, poco più di 9. Solo quello, diciamo il piccolo problema. Ma il resto, i vatti sono sempre quelli, quasi 15. Non lo so, poi c'è qualche problema all'antenna. Mi avrò messo qualche spillo, cosa ne so. Ma non è lo stazionario. Se non lo spillo è fatto più in corto. Oh, Luca. Salvato. Cappa, guarda, qua non ha cambiato niente il segnale, se è qualche cosa che c'è sull'antenna o sul cavo. Poi già, se ci vuoi fare i cicli sotto, ti fa piacere, dico che stai arrivando 9.50, ti piace? No, io già ci credo, non c'è problema. Però sono un po' di cicli di cicli, non riesco più a capire quello che devo fare. Perché se tu lo sai come uscivo prima, come sto uscendo adesso, Salvato, per quello che tu... No. Vediamo un pochettino, adesso come esco. Guarda adesso il segnale. Adesso con l'altro qualche cosa si è aumentato. Ma come stai parlando? La radio, ripeto, andava bene, pure di più basso di 9. ma sul 9. Io ho sentito in altre occasioni, con la stessa radio bella, ma mi suonavo il 9.30, 9.25 mi arrivavi, quindi quello che ti dicevo che avevi uno dei segnali più alti. Quindi è ovvio che le noto queste cose, Gianni, ma me lo notate su Luca. Quindi che prove fate lì a Sassari? Siete due passi, siete a facci, parli direttamente alla finestra, l'unico che è più distante sono io, quindi al limite io vedo la differenza dei segnali magari. E adesso come ti sta arrivando il segnale? Adesso sei salito, non sei ancora però il livello delle altre volte, sei salito, sei 9.15 sei, però non sei a livello delle altre volte, ecco. E la radio però va bene, non come stasera che stavi saturando, come diceva Roberto, adesso la radio va bene, eccetto l'eco che sta sempre rompendo, però il resto va bene. Dani, adesso non sei tu, però un pochettino è migliorato. Poco fa stavo dicendo 9.15, un segnale che Salvatore ti schiacciava, cioè non era mai successo che lui arrivasse più fuori, a meno che non sollevava, però tu stavi dicendo un segnale di 9.15 quando eri più basso, poco fa. Mai successo, io non ti ho mai visto uscire così basso. Infatti ho detto, o sta usando un altro baracchino con un vacuum, metto vacuum, io non lo so. Comunque signori, mi sono arrivate le pizze, io devo interrompere, vi saluto, difficilmente rientrerò dopo, perché c'è anche la partita. Sabato c'è Milan-Juve, se pensa qualcuno, se lo volete vedere, io vi saluto a tutti, cercate di capire cos'è il problema. Ciao Gianni, Luca, Salvatore, Pierpaolo, Antonio, Giuseppe e Franchetta, spero di non dimenticarmi nessuno. Comunque vi saluto tutti quanti cordialmente, cuoretti da parte mia. Ciao ciao a tutti. Poco fa, sentito di avere 5 minuti, poco fa io ero occupato, te l'ho anche detto, per quello stavo uscendo più basso, stavo andando con Ubacqua, te l'ho anche detto. Adesso è diverso, bisogna anche capire la situazione. Attimo che riprendo io, sì, c'è la partita, scappo anch'io, ok, cioè saluto il circolare tutti quanti, dal primo all'ultimo che c'è sul 21, guarda, da te si vede poca differenza, Gianni, adesso, la differenza molto l'ho vista su Luca, perché Luca lo stesso andava con un bel segnale, su Luca c'è molta differenza, quindi è meglio che se lo controlli, qualche cosa c'è senz'altro. Tu se c'è di un vatto con di meno, questo lo sai tu, io ripeto, ho dato solo il resoconto dei segnali che mi arrivavano. Ok, me ne passo in quello di Pietro per avere la partita, sono tutti a tutti, lancio il mic a Giuseppe che poco fa non sono riuscito a rilanciarlo. Ciao a tutti quanti, correti anche per me. Sì, grazie Salvatore, buon QRT e buona carica. Dai, ci sentiamo presto e alle prossime. Ciao ciao. Ciao Salvatore, buona carica, buon tutto, ci sentiamo alle prossime linee. Avanti Antonio per il saluto. Salvatore, ciao, ci sentiamo alle prossime linee. Caro Roberto. Ciao Salvatore, ciao, ci sentiamo. Purtroppo io non posso fare niente qua. Vediamo un po', ma ci fate prova di capo, dai, avanti, ciao Roberto, anche a te alla prossima, avanti Gianni, come sta andando? E qua ci sono tutti. Qua non sia l'umidità, no, tipo mi... non si mettere molte cose. Fate misurare stazionare, va, un attimino. Luca. Thank you. comunque adesso vediamo come va, magari anche l'umidità. Oh Gianni, fai di nuovo quel passaggio che hai fatto un attimino adesso. Comunque già si è a fondo scala qua, anche poco fa. Vabbè, noi già siamo anche vicini, già. L'interessante è che vada bene da voi. Adesso sono normalissimo, sono normale. Attenzione Radio Vela sul 21, cambio. Senta, come mi può qual è nelle sue coordinate, sempre per cortesia o per piacere? Ci sentivo meglio ieri. Ma lo vede come monello lei stasera? Perché? Perché sì. No, non lo so io, perché mi deve trattare così lei a me? Scusa, se mi sei trovato, stia così, vorrei il nome, più il nome pure. Azzarola, c'è calata la palpebra allora qui, E niente, adesso ho messo in moto il 48 XL Multi, giusto per farlo scaldare, signor Vela 1. Mi perdoni tanto, e se ancora deve mettere in moto tutta la baralla dentro. Non ci ho fatto caso, ma forse di più sicuramente, con l'altro apparato forse di più, poi quando lo riattacchi vediamo, dai, non ci ho fatto caso prima Giuseppe. E mannaggia le polpette, cavolo, e questo qui è quello con il come cavolo si chiama, aperto di radio. E qua, guarda, adesso si dice sempre lo stesso. Lugarietto, lettore 6, 9 sul più, sempre uguale, regolare. Luca. Capote. Luca, mi copi a me, sono Giuseppe. Certo, ti sento, no Giuseppe? 9 più 30 e radio 5, cosa ti posso dire? Allora, l'unico problema che ho qua, lo smitter, che prima mi saliva da più di 9, adesso è 6 modulato 9. Ma non badare a quelle cose lì, può essere anche qualcosina nell'apparecchio. Qui ti sto dicendo, se non allontani la bocca dal microfono mi fai fare due giri di lancetta allo smitter, dai, stai uscendo alla grande, Lu. Ok, no. Comunque, problema sussiste anche su questo contatore d'antenna. Ah, io lo elimino, lo metto a cavo diretto, dai, riprenditi al pa. Giusto per fare una prova, stacco il microfono dal 48 e vedo un pochino se riesco a farlo sistemare su questo dove sto modulando. Se sentite un botto vuol dire che sono io, il microfono non andava bene. 2 minuti di bianco, non spaventatevi se sentite il botto. Ma devo fare il controllo. Ecco qua, ma cavo diretti via. Ciao. Ehi, usando il 48 XL Multi. Quello piccolino? No, quello che usavo nella barra pesante. Sì, quello che usavo nella barra pesante. Provo a attaccare l'altro. E senti, io posso fare una prova adesso, stacco il microfono da questo e vedo un pochino se il microfono dell'altro mi va bene. Prova, al limite fischia. Ma un secondo solo e sono da voi. Ciao Antonio, avanti. Ciao Gia. Qua già ci sono rotti, dai. No, non ci sono problemi. Cioè, poco fa magari con un bar. Allora, io non credo, se fossi lì fosse arrivi. No, non ho trovato molta differenza. Cioè, quando ho attenuato la differenza c'era. Ma poi quando ho aumentato, arrivavi nove a fondo scala, come dovrebbe essere. E 9-10 dai, a fondo scala arrivavi senza attenuare, tutto quello che molto da fare. Ecco un attimino sul 21. Avanti. Sì, grazie, e di nuovo tornato con il microfono amplificato, come va? Bene. Decisamente come microfono bene. Come radio? Il microfono, radio, la stessa cosa. Il segnale è sempre uguale, il microfono va meglio. Cappa, vuol dire che quel microfono lì, dai, quello piccolino, il giocattolino, mi devo mettere in testa di cambiarlo, dai. Vabbè, ma non è che può confessare che ci ha amplificato, che tanto, no? Poi almeno volta a tre, ce l'ho anch'io, solo che è modificato, si intende che è asciutto. Cappa, ci posso credere, ci mancherebbe altro, vai. Cappa, però no, non ho più segnale, Il multi. Come va questo lasci sulla barra? Perché questo fa anche 24 per qua. E appunto, come mai non lo lasci sulla barra? Perché l'ho pagato un pochino di soldi e se me ne lo pregano mi spiace un pochino. Ah, a te non è dentro il capannone perché? Cappa di Roger, ma già entrati per far danno diverse volte lì, eh? Ah, così è, no, allora fai bene, giusto. Cappa, che pure diventa il capannone, comunque, l'altro, decisamente il segnale è migliore, evidente che dà qualche volta in più. Cappa, adesso vediamo sabato se riusciamo a dargli un attimino di aspirina a questo ragazzo qua, dai. Whisky o agave? Whisky. Sembra che uno stia friggendo roba. Pierpaolo, buonasera. metanfetamina prendo io, ne sono drogato. Sì, la prendo per la pressione. No, perché sale, le sale, non è che siamo, però bisogna, io ogni tanto sospendo, uno due giorni poi riprendo, perché ormai siamo in quell'età che l'organismo non è più quando avevamo 20 anni, quindi bisogna, hai capito, adeguarci, se no poi lui si ribella. Ok, Giuseppe, rientrate, io mi ero assentato per fare carica batteria, poi ci siamo messi a guardare delle fotografie, ho preso anche un po' di tempo. Giuseppe, ci sei? Rientrato proprio in questo momento, Giuseppe, e ben risentito Capridue, cordialità come sempre. E sì, rientrato in questo momento perché ho di nuovo cambiato apparato e siamo di nuovo con il 40 Plus e vediamo un pochino come mi sentono gli amici della ruota, dai, e avanti Gianni. E fai un passaggio che ti dico se c'è lo stesso. Ok Gianni, vedi un pochino il segnale di Giuseppe come va a cambio. Beh, 9.20 è aumentato qua, per la voglia. Sta 9.10 e appena appena più di 9.10 si è passata 9.20. E capa di positivo, vai. E Pierpaolo, tu cosa mi dici adesso? Sempre Santiago 6. No, qua aumentato. Radio Vela, lei mi sta boicottando però, prendo il segreto e gliene butto giù l'antenna, cambio. Non ci sono problemi, guarda, per parola, a Gianni non sa che io non me ne metto problemi. Guarda, tu parli adesso, se hai patentato, tu parli, io faccio il filmattino all'Inter. E poi quando ti incontriamo ti faccio vedere adesso se sto dicendo palle. Il filmato si sta parlando tu, K, ma non è la scusa buona per non venire sotto casa a tagliarti il pezzettino dell'antenna, signor Vela 1. Abbia pazienza, però funziona così qui in modulazione. Avanti Vela 1. Naturalmente sai che si scherza qui, figurati, ci mancherebbe altro, 6 e 6, se no di chi mi potrei fidare. Comunque porta dentro l'antenna lo stesso stanotte, cambio. Non mi credi, adesso ti prendo il telefono. Oh, Pierpa, ma quando mai? Ma ti ricordi quando modulo con Antonio e gli dico sempre che ho in barra il segreto per portargli via l'antenna? Dai, ma ci mancherebbe altro, dai. Sì, probabilmente anche la zona che non è favorevole per te, perché Pierpaolo è in una camera, Antonio nell'altra, quindi magari Antonio dalla partenza più favorevole, capito? Beh certo, ci mancherebbe altro, ma io scherzo, dai, sai benissimo che su queste cose non ci faccio manco caso, che arrivi Santiago 2, Santiago 3, Santiago 0, Radio 2, l'importante è sentirsi, e se ci sentiamo vuol dire che siamo vivi. Cambio a te, amico Capri 2. Come radio per me. che mi arrivavi in 16, 4 e mezzo. Io? No, è proprio due. Facciamo amici tropicali, Giuseppe. Va bene, se ci tropicali se li mangiano i cosi, i saraghi. Noi ingrattiamo i saraghi e poi ce li buttiamo in padella e se li premo arrosto. Primo cura della da pesca e un po' di diversità, ci sono di acqua salata, acqua dolce, insomma, saraghi un po' l'acqua salata. Va bene, ma si abitueranno gli scalari, i guppi e quelli sui a stare un pochino in mezzo al sale, dai, in fondo che non sarà mica un dramma se li buttiamo dentro un pochino di sale per abituarli, dai. No, gli scalari potrebbero anche sopravvivere perché vivo in un'acqua salmastra. È un'acqua leggermente salmastra, quella che si incrocia tra il fiume e il mare. C'è praticamente delle...